Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. La competizione tra corrente continua e corrente alternata risale agli albori dell'era elettrica, con la famosa vicenda che vide contrapposti Edison, patron diciamo della corrente continua, e Westinghouse, che grazie all'invenzione di Nikola Tesla aveva invece puntato sulla corrente alternata. E dopo un po' di schermaglie iniziali, che tra l'altro hanno incluso esecuzioni pubbliche di animali, tra cui un'elefantessa, insomma, e altre facezie simili, alla fine insomma si è affermata la corrente alternata come forma dominante di trasmissione dell'energia elettrica. Questo almeno fino ad oggi, perché da alcuni anni la corrente continua sta riconquistando posizioni in una serie di ambiti, il più importante dei quali è la trasmissione a distanza e di grandi potenze elettriche, con linee che vengono dette HVDC, cioè in corrente continua ad alto voltaggio. Ed è su questo terreno, ed eccoci alla notizia, che c'è un accordo bilaterale tra Enea e Nedo, che è l'agenzia governativa giapponese per l'energia e lo sviluppo tecnologico, accordo firmato a fine febbraio, che prevede la realizzazione di un dimostratore alla Casaccia, nei pressi di Roma, di ultima generazione di questo tipo di linee. Ne parliamo con Giorgio Graditi, che è capo dell'unità dell'Enea che si occupa di smart grid e sistemi fotovoltaici. Buonasera Graditi. Buonasera. Allora, senta, intanto ci spieghi il perché di questo ritorno verso la corrente continua. Quali sono i vantaggi, insomma? La trasmissione di energia elettrica ad alta tensione in corrente continua è certamente una delle soluzioni più promettenti per poter realizzare interconnessioni tra reti elettriche e trasportare in modo efficiente corrente via cavo per lunghi tratti. Basti pensare ad esempio ai collegamenti via mare tra diversi paesi, all'interconnessione dei parchi eolici offshore o delle piattaforme petrolifere alla rete elettrica sulla terraferma. Esistono una serie di ragioni tecniche ed economiche che sono sostanzialmente legate al fatto che le linee in cavo per trasmissione in corrente alternata, sì, superiori a una certa lunghezza, che più o meno è di? Dei 70-100 chilometri, sono difficilmente realizzabili. Insomma, adesso non stiamo a spiegare perché, ma quando uno tira una linea molto lunga in corrente alternata, dopo 100-200 chilometri questa si comporta come, quasi come un cortocircuito. Non entriamo nei dettagli e quindi insomma non va bene. Sì, renderebbe molto difficile il trasporto delle energia utile, mentre nel caso della continua si riescono a garantire elevate capacità di trasporto con minori perdite di rete per lunghe distanze. E sono però più difficili le trasformazioni da una tensione all'altra, che è il motivo per cui invece storicamente aveva vinto la corrente alternata, no? E questa è una delle ragioni principali, insomma, anche dell'affermazione della corrente alternata, però c'è da aggiungere che grazie ad esempio alla tecnologia dell'HVDC, quindi dell'alta tensione in corrente continua, è possibile collegare in maniera sicura reti con tensione, frequenze, regimi diversi, certo, e la si può utilizzare anche come un gruppo di generazione di riserva, in quanto è in grado di fornire potenza richiesta in tempi rapidi anche per far ripartire la rete in situazioni di criticità. Di blackout, per capirsi. Ad classici blackout. Ecco, allora, veniamo all'accordo, se ci spiega un po' meglio qual è l'obiettivo di questa sperimentazione, che cos'è che mettete alla prova? Si tratta di un prototipo dimostratore che sarà realizzato per la prima volta al mondo da Toshiba Corporation e sarà installato presso il nostro centro della Casaccia, ed è costituito da convertitori multilivello innovativi con una tecnologia sviluppata da Toshiba. Ecco, convertitore, perché che cosa fa questo convertitore? Il convertitore serve a effettuare una conversione da corrente alternata a corrente continua, okay, e viceversa. E quindi è il cuore di questo sistema, no? È il cuore del sistema, e poi l'altra parte fondamentale del sistema è costituito ovviamente dal cavo che, certo, consente la trasmissione dell'energia. E l'obiettivo principale che ci si pone è quello di validare le soluzioni che verranno sperimentate e che sono orientate a ottenere una maggiore efficienza, una maggiore stabilità, una migliore sicurezza, ma anche minore ingombro e minore impatto ambientale. E poi grazie all'utilizzo di superconduttori di elevata potenza sarà possibile avere maggiori capacità di trasporto e minori perdite. Questo per quanto riguarda addirittura il cavo invece, che potrebbe essere fatto con materiali con queste caratteristiche. Ecco, abbiamo parlato di trasmettere grandissime potenze su lunghissime distanze, ma invece un'applicazione della corrente continua in casa è qualcosa che potrebbe avvenire in futuro? C'è qualche buona ragione per cui si potrebbe tornare, magari avere sia l'alternata che la continua a secondo dei casi? Sì, le ragioni ci sono. Tant'è vero che diversi soggetti operanti nel settore dell'energia stanno lavorando al concept della casa del futuro in corrente continua. Il motivo è semplice ed è legato al fatto che le fonti rinnovabili, sempre più distribuite sul territorio, producono energia in corrente continua, certo, ma anche al fatto che la maggior parte dei dispositivi elettronici utilizzano questa modalità per il loro funzionamento. Tutto ciò che ha dell'elettronica dentro funziona con la corrente continua, quindi praticamente ormai tutto funziona con la corrente continua e noi riempiamo di trasformatori qualunque apparecchio elettrico. Sì, in pratica è così. Tra l'altro, con la messa a bando delle lampadine a incandescenza e l'utilizzo delle lampade a LED, anche l'illuminazione, certo, avrà bisogno di energia in questa forma. Va bene, grazie allora. Grazie Giorgio Graditti. Grazie a voi. Ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento. A domani, buona serata.